Il lift era piuttosto mingherlino, malfatto e nel complesso alquanto brutto. Ciò nonostante, ogni volta che gli si parlava di un giovanotto alto, slanciato e sottile, annuiva. «Ah sì, ho capito, uno della mia stessa statura». Un giorno, che mentre aspettavo da lui una risposta, avevo sentito dei passi sulla scala e avevo aperto, con un moto di impazienza, la porta della mia camera, m'era apparso un fattorino bello come Endimione, dai lineamenti incredibilmente perfetti, venuto per una signora che non conoscevo. Quando poi era arrivato il lift, nel dirgli con quanta impazienza avessi atteso la sua risposta, gli avevo anche raccontato che m'era parso di sentirlo salire mentre si trattava di un fattorino dell'Hotel de Normandie. «Ah sì, lo so chi è. È lui, senz'altro, un ragazzo della mia stessa corporatura, anche di faccia mi assomiglia, al punto che ci potrebbero confondere. Lo si direbbe mio fratello». Infine, voleva dare l'impressione di capire tutto al volo e così non si era ancora finito di raccomandargli qualcosa che già rispondeva «Sì, capisco perfettamente», con una decisione, un tono di intelligenza che per qualche tempo mi illusero. Ma le persone, via via che le si conosce, sono come un metallo immerso in un composto alterante e le si vede perdere a poco le loro qualità, come pure a volte i loro difetti. Stavo per fargli le mie raccomandazioni quando mi accorsi che non aveva chiuso la porta. Glielo feci notare, temevo che ci sentissero, accondiscese al mio desiderio e tornò, dopo essersi limitato, a restringere l'apertura. «Giusto per farvi piacere, ma non c'è più nessuno qui sul piano, a parte noi due». Immediatamente sentii passare una, poi due, poi tre persone. Ero infastidito per via della possibile indiscrezione, soprattutto perché constatavo che la cosa non lo stupiva minimamente, che si trattava di un via vai affatto normale. «Sì, è la cameriera della stanza accanto che va a prendere la sua roba. Non ha importanza. È il sommelier che porta sulle chiavi. No, niente. Parlate pure. È il mio socio che scende a prendere servizio». E poiché le buone ragioni che tutti avevano per passare di lì non attenuavano il disagio causatomi dal timore d'essere sentito, andò su mio ordine formale non già a chiudere la porta, impresa superiore alle forze di quel ciclista che aspirava a una moto, ma a spingerla un altro po'. «Così siamo assolutamente tranquilli». Lo eravamo al punto che un'americana entrò e si ritrasse scusandosi d'aver sbagliato camera. «Accompagnerete da me quella ragazza», gli dissi, dopo essere andato di persona a sbattere la porta con tutte le mie forze, facendo correre un altro fattorino, preoccupato di controllare che non ci fosse una finestra aperta. «Ricordatevi bene, Mademoiselle Albertine Simonet. Del resto è scritto sulla busta, dovrete dirle semplicemente che è da parte mia». «Verrà senz'altro volentieri», aggiunsi per assicurare insieme a lui anche il mio amor proprio. «Si capisce, ma no, al contrario, non è così naturale che venga volentieri. È molto scomodo venire fin qui da Berneville». «Capisco». «Le direte di venire con voi?» Sì, capisco perfettamente», affermò con quel tono deciso e sagace che da molto tempo aveva smesso di farmi buona impressione, perché sapevo che era quasi meccanico e nascondeva sotto la sua apparente precisione abissi di vaghezza e stupidità. «A che ora sarete di ritorno?» «Ci metterò che poco», rispondeva il lift, che spingendo all'estremo la regola decretata da Belize contro la recidiva del non, s'accontentava sempre di una sola particella negativa. «Posso benissimo andarci. Hanno soppresso le uscite del pomeriggio oggi perché c'era una colazione di 20 coperti e toccava proprio a me uscire oggi pomeriggio, dunque è giusto che esca un po' di sera. Mi prendo la bici, così farò presto». E un'ora dopo arrivava dicendo: «Il signore ha dovuto aspettare, ma la signorina è venuta con me, è giù da Basso». «Ah, grazie, il portiere non sarà seccato con me». «Il signor Paul?» «Sa neanche dove sono andato. E il guardaportone ha avuto niente da dire». Ma una volta che gli avevo raccomandato «bisogna assolutamente che me la portiate», tornò a riferirmi sorridendo. «Lo sapete che l'ho mica trovata. Non c'era. E ho potuto restare che poco. Avevo paura di fare la fine del mio socio che è stato mandato dall'albergo». Perché il lift, che diceva rientrare a proposito di una professione nella quale si entra per la prima volta, mi piacerebbe rientrare nelle poste, in compenso, per addolcire la cosa se si fosse trattato di lui, o insinuarla con più dolcezza e perfidia se si trattava di un altro, sopprimeva il via e diceva «so che l'hanno mandato». Non era per cattiveria che sorrideva, ma per timidezza. Credeva di sminuire la gravità della sua mancanza mettendola sullo scherzo. Allo stesso modo, dicendomi «lo sapete che l'ho mica trovata», non pensava che realmente io potessi già saperlo. Al contrario, era sicuro che lo ignorassi e soprattutto se ne spaventava. Così diceva «lo sapete» per evitare a se stesso l'angoscia che avrebbe provato pronunciando le frasi destinate a farmelo sapere. Non ci si dovrebbe mai arrabbiare con chi, colto in fallo, si mette a ridacchiare. Se lo fa, non è perché se ne infischia, ma perché trema al pensiero della nostra collera. Testimoniamo una grande pietà, manifestiamo una grande dolcezza a coloro che ridono. Simile a un vero e proprio ictus, lo scompiglio mentale aveva prodotto nel lift non soltanto un rossore apoplettico, ma un'alterazione del linguaggio, divenuto di colpo confidenziale. Alla fine mi spiegò. Albertin non era a Aigreville. L'aspettavano solo per le 9, e se alle volte, e che voleva dire per caso, fosse tornata prima, le avrebbero fatto la commissione e sarebbe stata comunque da me entro l'una di notte. Tuttavia, non fu quella sera ancora che cominciò a prendere consistenza la mia crudele sospettosità. No, per dirlo subito, e sebbene il fatto sia avvenuto solo alcune settimane dopo, essa nacque da un'osservazione di Cottard. Albertin e le sue amiche, quel giorno, avevano voluto trascinarmi al casinò di Ancreville e, per mia fortuna, non le avrei raggiunte in quel luogo, giacché volevo fare una visita a Madame Verdurin, che mi aveva invitato parecchie volte, se non fossi stato trattenuto proprio a Ancreville da un guasto del tram, la cui riparazione richiedeva un certo tempo. Mentre passeggiavo avanti e indietro in attesa che fosse finita, mi trovai di colpo faccia a faccia con il dottor Cottard, venuto a Ancreville per un consulto. Esitai quasi a salutarlo, dato che non aveva risposto a nessuna delle mie lettere. Ma la gentilezza non si manifesta nello stesso modo in tutte le persone. Non essendo stato costretto dall'educazione alle stesse regole fisse del saper vivere cui si ispirano le persone di mondo, Cottard era pieno di buone intenzioni, che venivano ignorate o negate finché un bel giorno non gli si presentava l'occasione di manifestarle. Si scusò. Aveva ricevuto le mie lettere, aveva segnalato la mia presenza ai Verdurin, che avevano molta voglia di vedermi e dai quali mi consigliava d'andare. Voleva, anzi, portarmici la sera stessa, dato che avrebbe ripreso il trenino locale per andare a pranzo da loro. Poiché esitavo, e mancava ancora un po' di tempo per il treno, la cui riparazione andava per le lunghe, lo feci entrare nel piccolo casinò, uno di quelli che, la sera del mio primo arrivo, m'erano parsi così tristi, pieno adesso dell'animazione delle fanciulle che, in mancanza di cavalieri, ballavano fra di loro. André venne verso di me con una glissade. Io contavo di andarmene quasi subito con Cottard e Verdurin, quando di colpo rifiutai definitivamente la sua proposta, preso da un desiderio troppo vivo di restare con Albertin. Il fatto è che l'avevo sentita ridere, e quella risata evocava all'istante i rosei incarnati, le profumate pareti contro le quali sembrava si fosse appena strofinata e di cui, acre, sensuale e rivelatrice come un sentore di geranio, sembrava trasportare con sé qualche particella quasi tangibile, irritante e segreta. Una delle fanciulle che non conoscevo si mise al pianoforte e André chiese ad Albertin di ballare un valzer con lei. Felice in quel piccolo casinò al pensiero che sarei rimasto in compagnia delle fanciulle, feci notare a Cotard come danzassero bene. Ma lui, dal particolare punto di vista del medico, e con una maleducazione che non teneva in alcun conto il fatto che io conoscessi quelle fanciulle con le quali mi aveva pur visto parlare, mi rispose: «Sì, ma i genitori sono davvero imprudenti a lasciare che le loro figlie prendano simili abitudini. Non permetterei certo alle mie di venire in questo luogo. Sono graziose, almeno. Non ne distingue i lineamenti. Ecco, guardate», aggiunse indicandomi Albertine e André, che ballavano un valzer lento, strette l'una all'altra. «Ho dimenticato gli occhiali e non vedo bene, ma sono senza dubbio al culmine del piacere. Non tutti sanno che le donne godono soprattutto attraverso i seni e i loro, vedete, sono a strettissimo contatto». In effetti, i seni di André e di Albertine non avevano mai smesso di toccarsi. Non so se sentissero o indovinassero la riflessione di Cotard, ma continuando a danzare, si staccarono leggermente l'una dall'altra. Nello stesso istante, André disse qualcosa ad Albertine, che scoppiò a ridere della stessa risata penetrante e profonda che avevo sentita poco prima. Ma il turbamento che mi procurò fu, stavolta, soltanto crudele. Sembrava che Albertine vi infondesse, facendolo constatare ad André, qualche fremito voluttuoso e segreto. Risuonava come i primi o gli ultimi accordi d'una festa a me ignota. Me ne andai con Cotard, distratto dalle parole che scambiavo con lui, pensando solo a tratti alla scena appena vista. Non che la conversazione di Cotard fosse interessante. In quel momento, per di più, s'era fatta acida, perché avevamo visto il dottor Du Boulbon, il quale non s'accorse di noi. Era venuto a passare un po' di tempo sulla riva opposta della baia di Balbec, dove lo chiamavano a numerosi consulti. Ora, sebbene Cotard amasse dichiarare che non esercitava la medicina durante le vacanze, aveva sperato di farsi sulla costa una clientela scelta, progetto cui Du Boulbon risultava d'ostacolo. Il medico di Balbec non poteva certo impensierire Cotard. Era soltanto un medico molto coscienzioso, che sapeva tutto e al quale non si poteva parlare del minimo prurito senza che vi indicasse all'istante in una formula complessa la pomata, lozione o linimento confacente al caso. Come diceva Marie Ginest nel suo grazioso linguaggio, sapeva incantare le ferite e le piaghe, ma non godeva d'alcuna fama. Aveva causato, è vero, un piccolo fastidio a Cotard. Questi, da quando s'era messo in mente di barattare la sua cattedra con quella di terapeutica, s'era specializzato in intossicazioni. Le intossicazioni, perigliosa novità della medicina, utile a rinnovare le etichette dei farmacisti, di cui non c'è prodotto che non venga dichiarato assolutamente non tossico, al contrario delle droghe similari, se non addirittura disintossicante. E la réclame alla moda. È un miracolo che in basso, in lettere illegibili, sopravviva, flebile traccia d'una moda precedente, l'assicurazione che il prodotto è stato accuratamente sterilizzato. Le intossicazioni servono anche a rassicurare il malato, il quale è felice di apprendere che la sua paralisi non è che un disturbo tossico. Ora, poiché un granduca venuto a trascorrere qualche giorno a Balbec s'era terribilmente gonfiato un occhio, Cotard, interpellato, in cambio di qualche biglietto da 100 franchi, il professore non si disturbava per meno, aveva imputato l'infiammazione a uno stato tossico e prescritto un regime disintossicante. Il gonfiore dell'occhio non diminuiva e il granduca ripiegò sul medico ordinario di Balbec, il quale in 5 minuti estrasse un granello di polvere. Il giorno dopo non si notava più niente. Ben più pericoloso rivale era una celebrità delle malattie nervose. Un uomo rosso, gioviale, sia perché la frequentazione del decadimento nervoso non gli impediva di godere di un'ottima salute, sia per rassicurare i suoi pazienti con la larga risata che, arrivando e congedandosi, rivolgeva loro a mo' di saluto, salvo in seguito aiutare con le sue braccia d'atleta a infilar loro la camicia di forza. Non di meno, se si parlava con lui in società di politica o di letteratura, vi ascoltava con attenzione benevola e interrogativa, quasi a chiedere «Di chi si tratta?» ed evitava di pronunciarsi subito, come se si fosse trovato a un consulto. Ma in fin dei conti, per quanto talento potesse avere, era uno specialista. E così tutta la rabbia di Cottard s'era riversata su Du Bourbon. Del resto, mi separai rapidamente per tornare in albergo dal professore amico dei Verdurin, promettendo che sarei andato a trovarli. Il male provocatomi dalle sue parole riguardo ad Albertine e André era profondo, ma le peggiori sofferenze che me ne derivarono non le sentii subito, come succede con quegli avvelenamenti che agiscono solo dopo un certo tempo.